Ho trovato eccessivo l'inasprimento del dibattito politico e mediatico, incomprensibile, secondo la mia percezione, agli occhi di milioni di italiani che in questo momento sono ancora prioritariamente interessati alla loro salute e al loro lavoro. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Bundesliga, die ab der zweiten Maihälfte wieder den Spielbetrieb unter den genehmigten und ja auch getesteten Regeln führen darf. No lo sé, es que dependerá, yo creo que a mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, dependerá de lo que ocurre. Mire, va a depender mucho, no lo sabemos nadie. Una volontà del governo condizionata dalla situazione sanitaria in Inghilterra. Dal 1 giugno in poi gli eventi sportivi e culturali potranno tornare a svolgersi. Anche la Premier League sarebbe autorizzata a scendere in campo. Il campionato, se riprenderà come tutti auspichiamo, riprenderà perché saremo arrivati a questa decisione dopo una successione ordinata di azioni e di protocolli e di attività che avremo svolto, che avranno consentito di riprendere il campionato in sicurezza. Palestre, ai centri danza, a tutti gli impianti, centri e circoli sportivi. Io proporrò per il prossimo DPCM la riapertura di tutte queste attività, di tutti questi centri il 25 maggio. Allora, posto che tedeschi, spagnoli e inglesi se ne fottono della loro salute e del loro lavoro, caro ministro Spadafora, io sto aspettando il derby, con grande trepidazione, il derby Borussia Dortmund-Schalke 04 che riaprirà il calcio sabato, questo. E in estate penso che tornando dalla piscina, dal playground o dal centro danza mi sintonizzerò per guardare i campionati inglese, tedesco, spagnolo. Ciao Paolo Condò. Caro Carlo, ciao. Sai che ti penso tantissimo in questo periodo, non solo perché ti voglio bene, lo sanno tutti, ma per una cosa che mi hai detto in una chiacchierata di qualche tempo fa. Cioè tu dicesti... Sì. Decidono quello che vogliono, l'unica cosa inaccettabile sarà rimanere invischiati nella burocrazia. Voglio zero burocrazia, vorrei, sogno zero burocrazia, esattamente quello che sta succedendo. Mi pare. Sì, beh, era ovviamente una speranza abbastanza illusoria. Io vado oltre, sai, vado oltre, non ho molta paura da questo punto di vista di espormi. Spadafora è un provocatore. Spadafora un provocatore che ha già deciso lui per i suoi fini, per i suoi fini ha deciso che non ci sarà nessun campionato di calcio, nessuna ripresa del campionato di calcio, e adesso sta seguendo un suo percorso, diciamo, per dare a volte l'illusione che il campionato possa riprendere. Ecco, ma in realtà lui ha già deciso quello che sarà. Adesso naturalmente io mi aspetto, non c'è soltanto lui al governo, e mi aspetto che le sue prese di posizione vengano, come già sta succedendo in parte, vengano messe in discussione da parte degli altri membri del governo, naturalmente, perché non è che può decidere da solo. Però per quanto riguarda lui, fin dal primo momento era chiaro che lui non aveva nessuna intenzione, e lui continua a mandarci questo messaggio come ghino di tacco. Vi ricordate quando si diceva Craxi ghino di tacco? Lui è sulla rocca di Radicofani e si sta divertendo a frustrare tutte le speranze. Attenzione, io non sto dicendo che il campionato deve ricominciare. No. Io sto dicendo che bisogna proseguire in attesa che la curva dei contagi cali ancora più, è già calata, ma cali ancora più drasticamente. Però naturalmente bisogna avere un approccio positivo nei confronti di questa di questa eventualità, come stanno avendo ormai nella maggior parte degli altri paesi. È notizia di oggi che anche l'NBA praticamente ha deciso una ripartenza che dovrebbe avvenire il prossimo mese. Ma sai, la volontà, poi il modo si trova, l'NBA lo farà con le sue modalità, sì. Disneyland. No, la cosa che mi infastidisce di questo ministro è questo suo continuo porre l'accento, porre in contrapposizione la ripresa del campionato di calcio con la salute delle persone, come se la ripresa del campionato di calcio volesse dire minore attenzione per la salute. Quando lui dice c'è stato troppo dibattito, la gente è interessata alla sua salute, non è che se noi che siamo addetti ai lavori parliamo della possibilità o meno di riaprire il dibattito, questo vuol dire che chi di dovere non si sta preoccupando della salute caro dei mio. Cittadini. Questo è il populismo allo stato puro. Caro a mio. Me il populismo fa schifo, ecco, e lo dico senza nessunissimo problema. No, lo diciamo io, anche lo diciamo io tutti i giorni, certo, da circa 3 mesi, però esatto. il discorso, abbiamo questo anche tutti cambiato opinione. No? Populismo che al di là dell'esempio calcistico, io naturalmente sento forte l'argomento calcistico, perché trattandosi del mio lavoro, io sono parte in causa ovviamente in questo discorso, non è che io sto ragionando in vitro, in valore assoluto, sono parte in causa e quindi sto cercando di trovare motivi per i quali si potrebbe ricominciare a giocare e io potrei ricominciare a lavorare. Se qualcuno vuole accusarmi dire lo dici perché vuoi ricominciare a lavorare, dico sì, è vero, lo dico perché vuoi ricominciare a lavorare, ma voglio dire, se lavorassi in banca vorrei cercare di trovare le maniere e certo, i protocolli sanitari per poter lavorare in banca, se fossi un attore per poter lavorare nel cinema, se fossi un barista in un bar, ma come tutti quanti. Pierluigi Pardo ci sta ascoltando. Sì, no, sono completamente d'accordo, soprattutto sulla contrapposizione che non deve esserci tra il calcio e il resto, anzi mi sembra, anche vedendo tutto il fronte politico, che poi chi insomma spinge per provare a riprendere lo fa con tante attività diverse, cioè il calcio è una parte del meccanismo, non è una cosa in opposizione con il resto del mondo, non è che si riprende il campionato di calcio e allora la salute delle persone viene messa in discussione o gli altri settori non ripartono. Il calcio è esattamente come i ristoranti, i bar, le spiagge, i negozi di abbigliamento, è un settore della vita pubblica. È chiaro che ha delle dinamiche sue, perché c'è un discorso di contatto fisico che deve essere capito, e lì ci sono sicuramente gli esperti, i tecnici, i tamponi da fare e tutto il resto. Però in generale secondo me, ma lo dico da 2 mesi, qua parlo tutti i giorni. No, ma non a caso, Pier, scusami, non a caso. Bisogna avere un approccio positivo, poi ripeto, se alla fine non sarà possibile, ci arrenderemo tutti, non chiaro. Sarà possibile perché magari la curva dei contagi è tornata a crescere o perché non ci sono le condizioni minime. A me sì. Io sono esattamente come Paolo, cioè sono contento se si gioca, ma adesso anche per essere un po' brutali, lo stipendio cioè non è un problema di sussistenza, i problemi veri ce l'hanno purtroppo chi ha delle attività, i ristoranti, i bar, chiaro. Gli alberghi, e qui è semplicemente il fatto che siamo persone positive che provano a immaginare una ripresa, una ripartenza in ogni settore della vita, in ogni e settore della vita, ma questo. non a caso da altre parti abbiamo sentito prima Angela Merkel quando ha detto a Bundesliga riprende, Boris Johnson, Inghilterra non sta messi benissimo, molto peggio di noi al momento, eppure ha detto 1° giugno quelle attività riprendono, perché li tratta come settori produttivi. Qui un settore produttivo è lo sport professionistico, un altro settore produttivo è lo sport dilettantistico, piscine. Va trattato laicamente, come un settore normale della vita pubblica. Però ha ragione, ripeto, credo... se non ci saranno le condizioni, e attenzione, se non ci saranno le condizioni per ripartire, e poi però non è che a luglio questi ragazzi si allenano, allora decidiamo che se non troviamo una maniera per convivere col virus dal punto di vista calcistico, se non ci sono i margini, perché decidiamo che non ci sono i margini, che è troppo pericoloso, a me va benissimo, a quel punto torniamo a giocare nel 2022. Sì, non è che adesso, chiaro, perché, torniamo a giocare nel 2022, a quel punto giochi soltanto quando c'è il vaccino. Sì, appunto, con calma nel 2022. Spero sia un concetto chiaro, cioè dire a giugno non si gioca, però si gioca la prossima stagione, quindi a luglio facciamo i ritiri e le amichevoli, perché quella, la nuova stagione ovviamente vivrebbe di ritiri preliminari e amichevoli a luglio, e mi sembra abbastanza impensabile, e è per questo che in tutti i settori della vita pubblica noi dobbiamo capire i meccanismi per convivere col virus, cercare di minimizzare il rischio e aggiungo, un minimo rischio. Il disegno sarebbe: ricominciamo a luglio con i soldi delle TV pagati, con gli stipendi dei calciatori che sono sospesi perché tanto non ci hanno dato la prestazione, riprendiamo a luglio in queste condizioni tutti contenti. Però alla fine, Paolo Condò, ci sarà un conto da pagare, no? Perché se Spadafora persegue un obiettivo, Prostato. Ci sarà un conto da pagare, e se si persegue un obiettivo che mi sembra chiaro, cioè quello di mettere 1000 paletti alla ripresa di questo settore produttivo, alla fine ci sarà un conto da pagare. E mi pare che anche sul fronte della Lega, che adesso è riunita, vedrai che usciranno dicendo: vogliamo riprendere tutti quanti, però poi c'è il medico del tal club che dice così non mi va bene, quell'altro dell'altro club che si dimette, e poi c'è il discorso delle quarantene, poi c'è il discorso dei contratti dei giocatori in scadenza, per pretesti per non riprendere ce ne sono mille. Sono talmente tanti pretesti e talmente tanti problemi aperti da risolvere che è del tutto evidente che se tu non vuoi far, se il tuo atteggiamento è negativo, come quello di Spadafora, cioè se tu non vuoi far riprendere il campionato, hai l'imbarazzo della scelta. Basta scrivere, come è stato fatto in questi giorni, basta scrivere sui protocolli che i medici sportivi sono gli unici responsabili di qualsiasi cosa accada, ecco, e automaticamente i medici hanno detto: no, attenzione, piano, calma. Giustamente. Come questa storia. Cioè, basta fare questo. Cioè, non è che sia difficile mettere un bastone fra le ruote e poi dire: ah no, io ero per la ripartenza. È facilissimo. È per questo che, come stava dicendo anche adesso Pier, o tu sei positivo e cerchi con sincerità le possibilità di far ripartire, e dopodiché se la curva dei contagi riparte verso l'alto non fai ripartire, questo è ovvio, ecco. Se i morti continuano a essere, sono calati ma sono sempre un numero da strage, quindi se i morti non calano ancora sensibilmente, io tutte queste cose le premetto sempre, ecco. Credo che le premettono anche da altre parti, anche Boris Johnson, anche da Merkel, è quello che hanno premesso in tutte, negli altri paesi non c'è il populista al governo, no? Non c'è questo che sta cercando dei like, perché non nascondiamoci che c'è un sacco di gente che spera che ha in odio il calcio, ecco, e che spera che il campionato non riparta. Il calcio ha enormi problemi di comunicazione della propria immagine, che, sui quali dovrà lavorare una volta finita questa emergenza, perché non è possibile che ci sia una quantità di gente così che odi. Che odio il nostro mondo, questo è emerso con molta chiarezza in questi ultimi mesi, ed è ovviamente su tutta quella fascia della popolazione che Spadafora punta per ergersi a paladino degli anticalci. Intanto anche l'UEFA, che aveva detto entro il 25 maggio vogliamo che i nostri membri ci comunichino modalità di ripartenza, ha detto vabbè, posso aspettare anche oltre il 25 maggio, questa data non è imperativa, non è indicativa, è perché stanno cercando, signor, di salvarci Spadafora, ovviamente, ce, no? Lo dica, sì, ce lo dica, anche il 26, 30 maggio ci dica qualcosa. Certo. Ragazzi, io ho chiamato un avvocato per dirimere alcuni contrasti che conoscete bene, Pier Filippo Capello, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao. Ciao. Ciao. Sei in buona compagnia con Pardo e Paolo Condò. Sì. Senti, ci sono alcune cose che non mi sono chiare, ma il nodo che mi sembra il più serio della scadenza dei contratti al 30 giugno è stato risolto? No, ancora non è stato risolto, siamo ancora fermi alle linee guida della FIFA per quelli internazionali, e a livello nazionale ancora non è stata presa una decisione univoca. Voi lo sapete, la FIFA ha detto nelle sue linee guida, che non sono vincolanti, perché la FIFA lo scrive, dice: queste sono le nostre idee ma non sono vincolanti, secondo noi i contratti che scadevano il 30 giugno dovrebbero continuare fino alla fine della stagione, qualunque essa sia. Dopodiché nessuna federazione, almeno tra le grandi federazioni, ha ancora ufficialmente espresso una decisione in merito. Quindi nemmeno quelle che, ad esempio, la Germania che riparte sabato. Nemmeno la Germania che riparte sabato, nemmeno la Francia che ha chiuso il campionato, non si è ancora espressa sulla durata dei contratti in scadenza al 30 giugno. L'esempio è quello del Paris Saint-Germain, che dice: se si gioca la Champions ad agosto, io Icardi ce l'ho o non ce l'ho, dato che il suo contratto scade a fine stagione, cioè in teoria al 30 giugno. E ancora adesso in Francia una posizione ufficiale su questo non è ancora stata presa. Mi sembra abbastanza urgente, no Paolo, questa situazione? Sì, sì, l'UEFA sta cercando di prendere tempo, è evidente, aveva detto il 25, adesso ha detto vabbè, il 25 non è proprio l'ultima data, aveva detto che durante l'agosto delle coppe europee non ci sarebbero dovuti essere campionati, invece adesso ha fatto capire vabbè, ma se qualcuno sfora il 2 agosto non sarà un grande problema. Questo è quello che si chiama avere un atteggiamento positivo, buon senso e costruttivo. Cioè, io ho fissato delle regole, però se sarà necessario fare alcuni sforamenti a queste regole, e naturalmente i contratti fanno a pieno titolo parte di questo discorso, io lo faccio pur di riavviare questa macchina. Ecco, all'UEFA sì. Per Filippo, se la stagione non si chiude sul campo, durerà mesi o forse anni nei tribunali. Leggevo che è stata semplificata la procedura dei ricorsi, che ovviamente nel caso in cui non si giocasse saranno un'infinità, tra ricorsi dei club ma anche battaglia legale con le TV. Questo fronte, ovviamente, se non riparte il campionato, vi darà un sacco da fare a voi legali. Sì, a noi legali dello sport darà un sacco da fare e da pensare. Intanto sono due piani diversi, quello nazionale e quello internazionale. Lo sapete che, per esempio, in Olanda l'Utrecht ha già preannunciato un ricorso nel caso in cui, in Olanda hanno chiuso il campionato come in Francia, ha già preannunciato un ricorso, l'Utrecht era in finale di Coppa d'Olanda e quindi si giocava un posto in Europa. In questo modo non sarebbe qualificato e ha già preannunciato che avrebbe dato battaglia ovunque, sia a livello nazionale, sia al TAS, eccetera. In Italia c'è questa bozza di decreto, il decreto rilancio, che è l'ormai famigerato, famoso articolo 211, prevederebbe una esautorazione della giustizia federale. Quindi il legislatore ha detto: tutto ciò riguarda la decisione sui campionati di questa stagione e quindi di conseguenza sui campionati della prossima, su come verranno formati i campionati della prossima stagione, i ricorsi saranno decisi dal CONI, dal organo del CONI, e poi eventualmente ci saranno i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale. Però tutta la parte di giustizia sportiva è stata estremamente semplificata. Oltretutto si parla di termini per fare ricorso di 7 giorni. Quindi quello che si cerca di fare è di ridurre quantomeno i tempi, perché questo sia compatibile con i tempi dello sport, perché questo decreto, questa volta decreto, vale per tutti gli sport professionistici, non solamente per il calcio, e in particolare per le necessità del calcio. Per quanto riguarda le televisioni, sai, quello che si dice è che se si gioca le televisioni anche a porte chiuse, anche 4 partite alla settimana, faranno buon viso a cattivo gioco. Sì. E quindi magari chiederanno una piccola riduzione, un piccolo indennizzo, ma non da... se non si giocasse, ecco, se non si potesse più giocare, sicuramente avremo da lavorare noi che ci occupiamo di diritto dello sport. E certo, e qui mi rivolgo a due esponenti delle TV, cioè DAZN e Sky, Pierluigi Pardo, DAZN Mediaset, vabbè, è inutile che stia a fare l'elenco, e Paolo Gondò per Sky, e mi domando: ma come possono pretendere soldi dalle TV facendo la voce grossa e minacciando di andare in tribunale con un contratto da rinnovare l'anno prossimo, no, che ma sarà infatti una battaglia? Infatti torniamo all'approccio, che deve essere un approccio propositivo, ovviamente. Poi il virus decide, lo sappiamo, lo diciamo dal primo momento, nessuno si deve far male, questo è indiscutibile, non dobbiamo andarci a prendere un rischio esagerato, però provare a rimettere in piedi questa stagione è fondamentale, anche sul tema delle partite senza pubblico. Visto anche una parte del mondo ultra che legittimamente dice, e anche tanti altri tifosi che legittimamente dicono, che le partite senza pubblico fanno abbastanza schifo, ma siamo d'accordo anche noi, anche Paolo, credo che siamo tutti d'accordo. È talmente evidente questo, che lo abbiamo detto il primo giorno, io poi mi sono astenuto dal ripeterlo perché però quest'estate ti faccio un altro esempio, quest'estate sicuramente non ci saranno le grandi rockstar, non faranno i concerti, ma i dischi li faranno lo stesso, ma sì, certo, no, ma è lo stesso. Se troviamo un protocollo che ci dia la possibilità in qualche modo di chiudere la stagione, sempre se il virus ce lo consentirà, perché decide il virus, e riusciamo a fare qualche mese a porte chiuse, è meglio che trovarsi le società fallite da qui a qualche mese, che è quello, quindi, che ha detto in Germania, per quello che è il sacrosanto diritto, il sacrosanto piacere di rivedere. E io sono un fan di questo, uno stadio pieno, con le curve, le tribune, i tifosi, le coreografie, che è una cosa che ci sogniamo, credo, tutti, giorno e notte, tutti noi che abbiamo il calcio. Se per riuscire ad avere questo e un campionato competitivo in sicurezza dobbiamo passare 4-5 mesi così, ben venga. Altrimenti, ripeto, l'alternativa è molto semplice. Se stabiliamo che non esiste una possibilità, purtroppo, in sicurezza, per giocare a pallone col virus, rivediamoci nel 2022, il giorno in cui sulla rivista Science diranno che hanno trovato il vaccino e ci saranno decine di milioni di vaccini, centinaia di milioni di vaccini per tutti i cittadini europei e di tutto il mondo, allora torneremo in campo. Sì, chi tornerà in campo? Io, te, Paolo Condò e Pier Filippo Cappello giocheremo noi. No, io sono un centrale difensivo. Ti allena tuo papà, E nel frattempo il calcio, che ha mille difetti, ma che da quello che mi risulta non ha chiesto, parlo dell'industria calcio, non ha chiesto mai allo Stato dei soldi, non gliel'ha mai chiesti, anche perché comunque è un settore economico che tutto sommato ha tenuto anche in anni di quasi recessione, e alla fine se dovesse avere un ammanco di cassa così importante, esattamente come le altre categorie economiche, andrà a chiedere tutto questo. E attenzione, non è per lo stipendio di Ibrahimovic o di Cristiano Ronaldo, è per la tenuta di un sistema che porta posti di lavoro, che ha tutta una sua filiera, esattamente come gli altri aspetti del mondo. È ovvio che, ragazzi, la situazione ideale non c'è, la situazione rischio zero non c'è, la possibilità che vorremmo questo tutti di aprire lo stadio con i tifosi non c'è in questo momento. Allora che facciamo? Appunto. Io dico che dobbiamo provarci, poi se fra 2-3 settimane ci rendiamo conto, in Italia e negli altri paesi europei, che non c'è questa possibilità, perché magari c'è una recidiva, perché purtroppo magari torna a crescere la curva. Per mille motivi che allora ci fermiamo. Che scopriremo. Però ci fermiamo tutti, si ferma tutta l'Europa a quel punto, non è che ci fermiamo solo perché noi il problema italiani. È quello del raccordo con gli altri paesi, no? Mi sembra, ripeto, passeremo l'estate, volevo sentire anche il tuo parere per Filippo su questo, noi l'abbiamo già dibattuto, passeremo l'estate a tornare dalla piscina, dal playground o dalla palestra e guarderemo le partite di inglesi, tedesche e spagnole. È surreale, no? Sì, è surreale perché se riescono a giocare i tedeschi, gli spagnoli tedeschi, probabilmente dovremmo essere in grado anche noi. Per tornare a quello che diceva Pardo prima, neanche il tennis a porte chiuse è lo spettacolo più bello del mondo, però io un Roland Garros, tra non vederlo e vedere Federer e Nadal giocare da soli in televisione senza pubblico, o gli internazionali di Roma per stare a casa nostra, io preferisco vederli senza pubblico, ma in televisione almeno mi guardo Federer, Nadal, Djokovic o chi volete voi, vedo gli italiani, faccio il tifo, sarà meno bello, ma intanto il sistema continua a funzionare, gli sponsor continuano a metterci soldi. Pensate solamente ai Golden Gala di atletica, vedere i 100 metri senza nessuno che applaude è triste, ma è ancora più triste non vederli 100 metri correre. Sì, anche perché non dal nostro Tortu, per esempio. Quindi bisognerà tutti quanti mettersi, come noi lavoriamo, come voi state lavorando da casa, e oggi io ero in videoconference e ne avrò ancora 2 o 3 oggi pomeriggio. Tutto quanto deve evolversi, cercare di adattarsi. E giustamente anche questi sport e queste attività si evolveranno e si adatteranno finché, come ha detto giustamente Pierluigi, le cose non potranno tornare come prima, ma non possiamo stare in una bolla pensando solamente a nulla, guardare nel vuoto per 8 mesi, 10 mesi, un anno, finché qualcuno dirà è stato fatto un vaccino, secondo me. Certo, grazie per Filippo, grazie davvero, a presto. Grazie a voi, un caro saluto. Un abbraccio ancora virtuale, e certo, anche perché se no Paolo... Sono d'accordo, il principio quello dice Pierre, è vero che il calcio ha una sua sacralità, cioè... noi non è che io non è che baro quando lo dico, io lo penso veramente, io penso che la componente pubblico nel calcio abbia un valore che è superiore a quello di una partita di tennis. Federer Nadal quasi mi diverte, quasi mi può divertire vederla senza pubblico, perché sento solo la loro voce e quasi mi diverto. Sì, ma più. Loro giocano peggio senza pubblico, non c'è dubbio. Loro giocano peggio senza pubblico, non c'è dubbio. Tortu l'altro giorno ci raccontava di come del silenzio che si fa, citando De Gregori, nel momento prima dello sparo, dello starter dei 100 metri, ce lo raccontava con una potenza incredibile. Quindi, però voglio dire, il calcio è sicuramente una cosa diversa. Il calcio ha bisogno dello stadio, ha bisogno del pubblico, secondo me, più di altre discipline. I tifosi hanno un valore che è enorme. E per me è indiscutibile, ed è un dolore raccontare le partite senza pubblico e non poterli far andare allo stadio. È un dolore enorme. Però se questa cosa qui è l'unica strada per qualche mese per provare a salvare un sistema economico e il campionato che verrà e il futuro del calcio, che, insomma, alla fine è un male necessario. Mi viene da dire è il male minore, certamente, anche perché se invece si dà retta al male maggiore, rischiamo di, quando arriverà il vaccino, di essere a ground zero, Paolo. No, allora il discorso è: abbiamo esaurito le nostre opinioni, penso siano abbastanza chiare sull'aspetto sanitario. Ecco. La ripartenza di tutti i campionati deve essere condizionata da situazioni sanitarie nettamente migliorate rispetto alle attuali. Il rischio zero non ci sarà finché non ci sarà il vaccino, ma i rischi possono essere accettabili o non accettabili. Ecco, quindi in presenza di sfida. Esaurito il discorso sanitario, siamo tutti d'accordo su questo, ecco, se gli altri partono e noi non partiamo, secondo voi, cioè se gli altri giocano e noi non giochiamo, secondo voi per quanto tempo ancora avremo Ronaldo, Dybala, Lukaku, Lautaro, Ibra, Zaniolo? Per quanto tempo ancora resteranno a giocare nel campionato italiano? Se nel campionato italiano non si gioca e negli altri tornei. Rispondetemi a questa domanda, perché serve. No, ma non c'è dubbio. Il concetto della competizione, che è il concetto della competitività, meglio, che i nostri imprenditori in tutti i settori della vita richiamano, e che gli stessi impiegati, gli stessi operai, gli stessi addetti hanno in qualche modo a cuore, perché un sistema economico che funziona è un sistema economico nel quale il capitalismo umanistico di Olivetti l'abbiamo avuto in Italia, no? Cioè l'idea che un'azienda non è soltanto il capitalismo illuminato, non è soltanto il profitto o il valore di un'azione che viene distribuita agli azionisti, è un sistema economico, è una filiera, è un territorio che funziona, è una soddisfazione, una pienezza per tutti quelli che lavorano in un ambiente e in un settore economico. Quindi questa roba qui vale per tutti, ed è esattamente per il calcio come negli altri settori. Il tema della competitività del nostro calcio con il resto d'Europa non è una questione è una cosa che uno rosica perché la sua squadra perde in Europa, no. Una questione complessiva neanche il sentimento di voler punire quei maledetti ricastri dei calciatori, toglietegli lo stipendio, siamo tutti contenti. Ciao Paolo, ti ringrazio. Ciao ragazzi, a presto. Ciao Paolo. Condò, ci fermiamo per la borsa a proposito di economia e poi abbiamo Filippo Magnini. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Tieni Filippo, tieni che vai a prenderti l'argento e forse di più. È medaglia d'oro per Filippo! L'abbiamo visto carico, voleva vincere una medaglia, l'ha vinta. Via Filippo che ti vai a riprendere l'oro. Sì! Sì, 48 e 43, ex aequo con Brent Aidan. E va bene, oro in condivisione, è oro. Tutta la benzina che hai in corpo, Filippo, stiamo volando verso la medaglia d'oro con cui andiamo a chiudere questo europeo. Filippo Magnini in corsia 1, l'Italia chiude con una fantastica medaglia d'oro. questa voglia di smettere, questa voglia di comunque dare un punto alla mia carriera bellissima, lunghissima, che ha avuto un'evoluzione da comunque giovane, da campione del mondo, da capitano della nazionale. Questi ultimi mesi li ho vissuti con un po' di apprensione e oggi con la chiamata dell'avvocato che mi comunica che ho vinto, e ripeto, ho vinto la mia battaglia sportiva, quindi il TAS mi ha assolto da ogni tipo di accusa. Tornare in acqua mi dà una gioia che è difficile spiegare, un insieme di sensazioni pazzesche. Appena mi tuffo tutto il mio corpo reagisce, lo sento in ogni singola parte. Si chiude un cerchio, faccio un check-up di me stesso. Mi piace tutto, sorrido. Mentre nuoto posso smettere di pensare, l'ansia se ne va. Resta l'unica resistenza che è bello sfidare, la resistenza dell'acqua. Buongiorno Filippo Magnini. Buongiorno, ciao, che bella presentazione. Guarda, ascoltare tutte le telecronache che mi hanno fatto nelle mie vittorie è stato emozionante, mi avete fatto rivivere tutto, bello. Ciao anche a Giovanni Bruno, ciao direttore. Ciao Carlo, ciao Filippo, ciao Filo. Ciao. Beh, le telecronache di Fioravanti sono telecronache di Fioravanti emozionanti, mica da ridere, eh? Sì, anche quella di Micarozzi, sono fantastici, devo dire, hanno regalato delle belle cose. Avete scelto delle bellissime gare, comunque il mondiale del 2005 e del 2007 anche bel materiale, c'era. È vero. Senti, molto bello. Io vorrei partire dalla fine, cioè dalla resistenza dell'acqua, che è il titolo del tuo libro. Sì. Dalla fine, anzi dal futuro. Hai 38 anni compiuti a febbraio. Torni alle gare? Allora, prima di tornare alle gare bisogna tornare ad allenarsi. Questo è il passaggio più faticoso. Guarda, non lo so, non chiudo le porte. Poi adesso sto vedendo anche Last Dance, no? Il documentario su Michael Jordan. Solo tu lo stai vedendo. No, tutti, però vabbè, da sportivo lo sto vivendo con grande apprensione. E quindi lui ha detto, cos'è che disse, no? Non chiudo la porta, quindi vediamo. Però è ovvio, ho un'età, sono, come hai detto, 38 anni. I ragazzi con cui dovrei gareggiare ne hanno 20. Quando ho smesso di nuotare ho smesso anche perché ero comunque abbastanza stanco e comunque tranquillo, no, della mia scelta. Però chissà, dai, ovviamente quando ti succedono cose come sono successe a me, quindi questa, io la chiamo battaglia anche se non è una battaglia, però insomma questa battaglia con la giustizia sportiva che è durata 3 anni, insomma ti si riaccende, no, un po' anche l'adrenalina di tante cose. Forse anche il fatto che hanno spostato le Olimpiadi, allora dici, ah cavolo, ma se hanno spostato le Olimpiadi c'è un altro anno. Però per adesso rimangono pensieri, quindi sì. Devi fare banalmente ciò che ti rende felice, scusa questo momento di grande retorica, ma nel senso che poi tutti i ragionamenti sul marketing, abbiamo anche degli esempi nel calcio, no, molto molto forti, i ragionamenti sul marketing, la paura di non essere competitivi, l'idea di poter sporcare, tra virgolette, chi se ne frega, fa cosa che ti rende più felice. No, ma hai ragione. Perché poi alla fine io credo che non ci sia niente di più bello della spontaneità, cioè, a 38 anni hai pienamente il diritto di poter andare, ammesso che sia così, anche un centesimo più lento di quando ce n'avevi 5 di meno. Ma se la cosa comunque ti dà adrenalina, magari l'esperienza ti fa quel centimetro, te lo fa guadagnare con gli interessi. No, ma anche perché quell'altro... No, ma è vero. Quell'altro sopracitato... Bisogna fare veramente quello che ci sente. Guarda, quell'altro sopracitato è nato a febbraio, come te, il 17. Ah, sì? Sì, il 17 del 63 e ha smesso un paio di volte, poi la terza poteva anche risparmiarsela, quella con i Wizard. Però, direttore Giovanni Bruno... Vedere di nuovo in vasca Filippo Magnini, anche se magari va un po' più lento, io ci starei, Giovanni. Ma io te lo firmo. Lanciamo il sondaggio e poi vediamo cosa vuole la gente. No, a parte l'unica cosa che chiedo a Filippo, per favore non fare il triathlon, perché tutti quelli che a un certo punto arrivano a una certa età e vogliono cose, no, sto pensando a tuo amico Massimiliano Rosolino, io tutte le volte lo chiamo e gli dico basta correre, basta andare a fare con la gente. Nuota, a questo punto vai in piscina e nuota, non è più fisico, no? Perché comunque poi per fare anche il triatleta devi anche essere più leggero, più magro, no? Quindi invece Rosolino era anche bello bello muscoloso, infatti tutte le volte lo prendo in giro, gli mando i video di io che faccio palestra, dico vedi io faccio la panca, te cosa corri, no di quello non ti preoccupare, guarda, ecco, l'unico meno male, no, perché tutti quanti lo ritrovano un refugio spettatorio la questione del triathlon, no, poi se dobbiamo fare dei paragoni, non so, Dana Torres ha fatto l'Olimpiada a 40 anni, diciamo, non è che mica certo. No è vero, ma mi sa che ha anche preso forse una medaglia addirittura. Mi dici dalla tua esperienza, diciamo, questo trade-off, questa, cioè come cambia col passare degli anni, com'è il rapporto esperienza fisico, cioè l'esperienza ti dà qualcosa che il fisico inevitabilmente, insomma, è una legge della natura, toglie? Com'è il rapporto benefici col passare del tempo? Allora, ti dico subito questa: se potessi scegliere preferirei meno esperienza e meno anni, ok? Questo è poco ma sicuro. Come pare chiaro. Poco ma sicuro. Però devo dire la verità che ovviamente l'esperienza dov'è che conta nello sport? Secondo me non conta tanto nella prestazione in sé per sé, perché è ovvio che un ragazzo di 20 anni fisiologicamente è meglio di me che ne ho 38. Però conta molto nell'approccio alla gara, conta molto nel momento in cui stai affrontando la gara, conta molto anche negli allenamenti. Diciamo che sicuramente io dall'alto, diciamo, dei miei 38 anni comunque so le cose che devo fare, come devo farle, quando le devo fare, quindi ecco, ho un bagaglio, un'esperienza che ho delineato negli anni che mi fa dire ok, se dovessi riniziare so cosa devo fare. Un ragazzo di 20 anni va un po' allo sbaraglio, però è anche la forza del ventenne, no? Che si butta, nuota e ha tutte le carte per vincere, quindi è ovvio che se dovessi scegliere preferirei avere 20 anni e probabilmente avessi 20 anni ancora ne metterei dietro parecchi. A 38 anni l'esperienza aiuta ecco, nella gestione forse della vita, dello sport e della vita in generale, quello sì. E l'adrenalina? Dei matrimoni, per esempio dei matrimoni. Certo, beh, ovvio, quello sì, vedi, anche lì a 20 anni, no, magari hai un'altra concezione, e invece quando cresci ne hai una migliore, insomma. Sì. Filippo, aspetta un attimo, abbiamo il traffico. Io saluto intanto Pierluigi Pardo, mi tengo Giovanni Bruno. Rimani? Allora tutti oltre la barriera del traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Allora, direttore, posto che abbiamo appurato che Magnini non troverai contro nelle gare di triathlon, almeno potete non nominare la parola triathlon, perché anche se sto sul divano mi affatica, cioè, semplicemente la parola triathlon mi mette la parola torneo d'avvolgibile, Pier, va meglio, quella va meglio, quella mi mette meno il fiatone, sì. Allora, Giovanni Bruni invece, che è un atleta, non se lo troverà contro nelle gare di triathlon, ma quanto al resto, che cosa ti incuriosisce in questo momento, in questa fase della carriera di Magnini? Ma intanto la risoluzione di questa spada di Damocle del TAS di Losanna, che gli ha dato ragione, perché è sempre comunque un concetto di macchia, quindi ripulito questo penso che sia stato poi un giusto tornare al sorriso per un atleta che ha fatto la storia della velocità nel nuoto, cioè dopo Carlo Pedersoli, Giorgio Lamberti, per me c'è Filippo Magnini, cioè come trade union fra tutto questo. Quindi, ti ringrazio, quello sì. No, ma in più, senti, se posso dire anche la mia da un punto di vista carrieristico, che chiaramente poi può essere, diciamo, con un obiettivo, il concetto dell'Olimpiade, l'esperienza, eccetera, eccetera, via tutto questo, però io l'ho sentito anche parlare molto in maniera precisa e perfetta anche come telecronista, quindi diciamo come esperto a fianco al telecronista, quindi per Eurosport, sì, devo dire tanto di cappello. Quello mi piace molto, devo dire la verità. Però sì. Che vuol dire ancora inserire l'esperienza? Non ho, diciamo, la fantasia e la dialettica di Pierluigi, ancora devo imparare, lui insomma. Dovresti andare sul palco con lui. Sì, dovrebbe un po' insegnarmi, anzi lo chiedo qui davanti a voi, dovrebbe insegnare. Però guarda, è stata un'esperienza molto bella quella della telecronaca, anche perché comunque metto dentro anche l'emozione poi di un atleta che fino a qualche anno fa era lì, no, a fare quelle gare, quindi sicuramente conosco gli atleti, sicuramente conosco la tecnica del nuoto, quindi mi piace e mi viene anche molto naturale, quindi è anche un aspetto, ecco, una via percorribile, speriamo, nel futuro. È ovvio che Scusami Filippo, è anche per inserire delle non banalità nel commento, perché uno cerca sempre di mettere la propria esperienza e la conoscenza degli avversari che fino a pochi mesi prima si è trovato, diciamo, in corsia con loro, e quindi sapere qualcosa del dietro le quinte, sapere determinate cose, quello vuol dire anche esperienza di avere un personaggio a fianco insieme al telecronista classico, invece avere il, come viene chiamato, il talent, l'esperto, certo, che può fare quel racconto che è diverso per appassionare poi la gente ed entusiasmarla, no? Beh, sì, sicuramente vivi e vedi la gara con una visione diversa, no? Quindi, da un'altra angolazione, quindi ecco, puoi dire tante cose in più proprio che hai vissuto, quindi no, ma guarda, io ripeto, lì mi sono divertito molto, penso e spero appunto che siano piaciute le cose che ho detto, che, insomma, come ho commentato, quindi è una strada che, se ci dovesse essere la possibilità, volentieri rifarò, perché mi sono divertito, quindi questo ti ringrazio. Per la spada di Damocle, guarda, questo qui per me è stata proprio veramente una delle vittorie più belle forse della mia vita, perché un conto è vincere un mondiale, che è vero, te ti prepari, vinci un mondiale, è il tuo sogno, eccetera eccetera, ma quando lotti no, davanti, contro, insomma, quello che vedi ai tuoi occhi essere un'ingiustizia, comunque ai miei occhi, è ovvio che per me era qualcosa di importante, anche perché dopo 27 anni, sai, è vero, magari chi ti conosce dice, ah, lo so che non è vero, ma sì, ok, ma rimane scritto. Invece, ecco, il fatto che comunque ho vinto, che ho dimostrato che ero totalmente strano ai fatti, sono stato assolto da tutto, nonostante io l'avessi sempre detto, è vero che ci è voluto molto, che per un atleta 3 anni è qualcosa di impensabile, quindi probabilmente bisognerebbe aggiustare anche un po' il tiro di certi meccanismi, però io, sai, come ho detto, ho sempre vinto i 100 metri, le mie gare negli ultimi 5 metri, e quindi anche questa volta non avrei mollato, fin quando c'era uno spiraglio io sarei andato avanti. Sono cose che possono fare molto male, Filippo, lo sa meglio di tutti, seguendo da sempre il ciclismo Giovanni Bruno, sono cose che possono, certo, fare un male cane. Quale tracce ti restano di questa vicenda? Guarda, sicuramente mi ha cambiato perché adesso io sono uno anche molto, spensierato, giocoso, mi piace stare in compagnia, sono un chiacchierone, uno che parla, eccetera, eccetera, e sono anche uno sempre veramente ha una visione ottimistica della vita, ok? Io sono sempre positivo, per me c'è sempre il lieto fine, c'è sempre la speranza in qualcosa, sono uno molto ottimista in tutto, però devo dire che non nascondo che anche un omaccione come me, sportivo, che potete vedere, io penso che in questi 3 anni... non dico che ho pianto almeno una volta tutti i giorni, ma quasi, dal dolore che ti provoca, dal dolore che provoca te, ma anche dal dolore che io non volevo provocare alla mia famiglia, che non volevo provocare a Giorgia, quindi io ho avuto anche dei momenti di silenzio, no, di tristezza interna, che non ho voluto condividere per non far soffrire le persone vicino a me, no? Quindi ecco, giocare con la vita delle persone, molte persone più deboli mentalmente anche di me probabilmente avrebbero fatto scelte sbagliate e diverse, no? Quindi ecco, molto che ho voluto scrivere anche in questo libro, per rifarmi un po' anche il libro, è stato raccontare tutto quello che mi è successo, per far capire comunque alle persone che nella vita purtroppo nessuno, non voglio tirarla, però nessuno avrà una vita bella, serena e felice da quando ha 2 anni a quando ne avrà 80, ok? Ci saranno sempre dei momenti di difficoltà, ma io, forse perché ho una mentalità sportiva, forse perché sono pazzo, non lo so, ma io non ho mai pensato di percorrere una strada del mollare, del non ce la faccio, del ho perso, ok? Bisogna sempre lottare per quello che è il tuo obiettivo, per la verità, e penso che alla fine poi la verità, se sei una bella persona, una brava persona, comunque paga, a lungo andare, dovrai faticare, ma paga. Direttore, che bella è questa. Giusto. Bella, no, è bellissimo. No, ma anche perché... No, chissà se scrive un libro su Young, ma tanto per fare una battuta, però... Voi pensate, è una cosa completamente diversa su questo, diciamo. No, ma appunto, però voi pensate, in questi 3 anni dove io, con tutti i controlli a posto, senza aver mai preso niente, senza aver mai avuto un caso di positività, senza aver mai pagato per niente, cioè senza, perché le prove dicevano tutto il contrario, soltanto perché conosci uno, allora il pensiero, non l'hai fatto, sì ma forse, di qua di là, e intanto io vedevo gente positiva 2 volte, atleti che, che hanno distrutto le provette, robe così, venire a gareggiare, continuare a gareggiare, atleti positivi come i russi continuare a gareggiare, vincere medaglie, e io che non avevo fatto niente, richiedermi 8 anni, c'è una roba Filippo, assurda, è il concetto così. Purtroppo della vetrina, è il concetto di essere tra virgolette famosi, è il concetto che io chiamo invidia per tante cose. Questo è, diciamo, su tutto e per tutto, e non ultimo anche il fatto che hai un amore in questo momento, tra virgolette, diciamo, conosciuto, ecco, non è la signorina Pina, guarda, che ha conosciuto sul pianerottolo di casa. Quello devo dire la verità. No, ma lascia perdere come ti ha aiutato, io sto parlando dell'invidia, sto parlando di determinate cose, di male lingue, e sto parlando di questo, perché, diciamo, vai a buttare nel gabinetto una carriera, come hai detto te, diciamo, supportata da Control, e ne fanno, perché falla a dire che ora venivano a fare... Ah, guarda, gli italiani sono, gli italiani casualmente sono i più controllati, te lo dico senza, ma senza, senza ma lamentela, so. Ma questo è per far capire come funziona il sistema, che magari molti non lo sanno. Quando nella finale, no, gli 8 atleti che vanno in finale, si fanno 3 controlli antidoping, ok? Casuali, ok? Quindi c'è il podio, il primo, il secondo e il terzo che fanno i controlli, più un quarto controllo che è casuale. Tra il quarto e l'8° posto ne prendono un atleta. Se c'è un italiano, fidatevi che a sorpresa lo farà sempre l'italiano. Quindi non è una casualità, ve lo dico io, guarda, in 20 anni di esperienza, quindi noi siamo i più controllati e va bene. Aggiungo siamo poi i controlli così. A sorpresa, Controlli a sorpresa, sì, venivano tranquillamente a casa alle 6 di mattina, c'è un quarto, perché comunque noi dovevamo, adesso io dico sempre dobbiamo perché la parlo da sportivo, però dovevamo compilare ogni 3 mesi la location form, quindi è un foglio dove te devi comunicare tutti i giorni, tutti gli orari, dove sei, i tuoi spostamenti, eccetera, eccetera. Se non ti trovano, rischi. Whereabouts. Sì, allora, facciamo così, quindi, insomma, io ti mando a lezione da Pierluigi Pardo, però ci vai a nuoto così ti alleni. Sì, beh, ma guarda che arrivo veloce, però, Pier, arrivo subito. No, speriamo che non bussino alle 6:15 di mattina, perché a quell'ora faccio jogging e quindi potrei... facevi colazione. Potrei non essere in casa. No, va bene, penso che abbiamo finito, però voglio dire una cosa soltanto, che gli atleti, tutti gli atleti, sono abituati a convivere continuamente con la critica, con il fallimento, con la sconfitta, col fatto di essere sempre giudicati. Ma credo, e mi fa enormemente felice come è andata a finire questa storia, che invece quell'accusa lì, cioè l'idea che uno possa aver manipolato, ecco, questa è insopportabile. Per cui è stata una battaglia, una grande battaglia e una grande vittoria. Grazie a tutti, grazie Filippo, in bocca al lupo. Grazie, Crepi Lupo, grazie a tutti. Allenati, mi raccomando. Giovanni Bruno, non è inutile chiedere di allenarsi, perché so che lo fa 10 ore al giorno. Viva il triathlon! Vero, sono appena tornato. Hai visto. E a Pierluigi Pardo, niente, faccio le solite raccomandazioni. Ma la farò un po' di triathlon, che è bellissimo, tra l'altro. Ciao, amico mio, domani. Grazie a Anita Panizza, a Claudia Schiattone e a Roberta Frisani in regia. Ciao a tutti, a domani. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.